Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il commesso di Bernard Malamud, traduzione di Giancarlo Buzzi. Venerdì, alle 6 del mattino, Morris, ancora debole, scese finalmente le scale, seguito da Ida che lo rimproverava. In quei giorni lei aveva aperto alle 8 e l'aveva pregato di stare a letto fino a quell'ora, ma Morris aveva rifiutato, dicendo che doveva dare alla polacca la sua pagnotta. Perché? Tre penny di una miserabile pagnotta valgono per te più di un'ora di sonno? Si lamentava Ida. E chi riesce a dormire? Hai bisogno di riposo, lo ha detto il dottore. Nella tomba riposerò. Lei rabbrividì. Morris disse: sono 15 anni che compra qui la sua pagnotta. Diamogliela dunque. Va bene, ma lascia che apra io. Gliela darò io e tu torna a letto. Sono rimasto a letto troppo tempo, mi fa sentire fiacco. Ma la donna non c'era e Morris temette d'averla perduta a vantaggio del tedesco. Ida insistette per portar dentro lei le scatole di latte, minacciando di gridare se Morris ci si fosse provato. Sistemò le bottiglie nel frigorifero. Dopo Nick Fuso attesero diverse ore un altro cliente. Morris sedeva al tavolo leggendo il giornale e alzando di tanto in tanto cautamente la mano a tastare la benda che gli fasciava il capo. A chiudere gli occhi aveva ancora dei cedimenti. A mezzogiorno fu contento di salire e di ficcarsi a letto. Si alzò soltanto quando Helen tornò a casa. Il mattino dopo insistette per aprire da solo. La polacca c'era. Lui non ne conosceva il nome. Lavorava da qualche parte in una lavanderia e aveva un cagnolino che si chiamava Polashkaya. Quando tornava a casa la sera faceva fare al piccolo cane polacco il giro dell'isolato. Al cane piaceva correre senza guinzaglio nel deposito di carbone. La polacca abitava in una delle case di cemento lì vicino. Ida la chiamava di Antisemitke, l'antisemita, ma quell'aspetto di lei non dava fastidio a Morris. Se l'era portato con sé dal suo paese un antisemitismo diverso da quello dell'America. Talvolta Morris sospettava che volesse provocarlo chiedendogli una pagnotta ebrea o una o due con uno strano sorriso, un sottaceto ebreo. Di solito non diceva proprio nulla. Quel mattino le diede la sua pagnotta e lei la prese in silenzio. Non gli chiese della sua testa bendata, benché la fissasse con i suoi occhietti vivi e lucenti, né si informò del perché non fosse venuto in negozio per una settimana. Mise però sul banco 6 penny invece di 3. Morris immaginò che avesse preso una pagnotta dal sacco uno dei giorni in cui non aveva aperto il negozio per tempo. Registrò la vendita di 6 cents. Uscì per ritirare le 2 cassette di latte. Afferrò le 2 cassette, ma pesavano come pietre. Ne lasciò andare una e trascinò l'altra. Una nube minacciosa gli si formò nel cranio e crebbe fino ad assumere le proporzioni di una casa. Morris vacillò e per poco non cadde nel fosso, ma Frank Alpine, nel suo lungo cappotto, lo sostenne e lo riaccompagnò in negozio. Poi tirò dentro le bottiglie e le mise in fresco, fece una rapida pulizia con la scopa dietro il banco e andò nel retrobottega. Morris, ripresosi, lo ringraziò calorosamente. Frank disse asciutto, tenendo gli occhi fissi sulle sue mani pesanti, segnate da cicatrici, che era nuovo del quartiere, ma che adesso ci viveva con una sorella sposata. Era appena giunto dall'Ovest e cercava un lavoro migliore. Il negoziante gli offrì una tazza di caffè che egli accettò prontamente. Sedendosi, posò il cappello per terra ai suoi piedi e bevve il caffè mettendoci 3 cucchiaini colmi di zucchero. Per scaldarsi in fretta, disse. Quando Morris gli offrì una pagnotta di grano duro, l'addentò avidamente. Gesù, Questo sì che è pane buono. Quando ebbe finito, si asciugò la bocca con il fazzoletto. Poi spazzò le briciole dal tavolo con una mano, raccogliendole nell'altra, e, benché Morris protestasse, sciacquò tazza e piattino nell'acquaio e li asciugò, rimettendoli sul piano del fornello a gas dove il negoziante li aveva presi. «Grazie di tutto!» aveva raccolto il cappello, ma non accennava a muoversi. «Una volta a San Francisco ho lavorato per un paio di mesi in un negozio di alimentari», disse dopo un minuto. «Solo che ero uno di quei supermarket, tutti della stessa catena. Il supermarket è la morte del piccolo commerciante. Personalmente io preferisco il piccolo negozio. Chissà che un giorno non ne abbia uno. Un negozio è una prigione. Si cerchi qualcosa di meglio. Almeno si è padroni di se stessi. Essere padrone di nulla non serve a nulla. Nonostante tutto, l'idea mi attira. L'unica cosa è che avrei bisogno di farmi un'esperienza di che roba si compra. Voglio dire, le marche, eccetera. Probabilmente dovrei cercare un posto in un negozio e far pratica. Provi da A&P, gli consigliò il negoziante. Magari. Morris lasciò cadere l'argomento. L'uomo si mise il cappello. «Cosa le è successo?» disse guardando la fasciatura del negoziante. «Ha avuto qualche incidente alla testa?» Morris annuì. Non ci teneva a parlarne, così il forestiero, un po' deluso, se ne andò. Guarda caso, era per strada di buon mattino il lunedì, mentre Morris stava di nuovo faticando con le cassette del latte. Salutò toccandosi il cappello e disse che era diretto in città a cercare un lavoro, ma che aveva il tempo di portargli dentro il latte. Lo fece e se ne andò subito. Comunque al negoziante parve di vederlo ripassare nella direzione opposta circa un'ora dopo. Quel pomeriggio, andando a prendere il suo forward, lo notò seduto al sifone del Seltz con Saint-Père. La mattina seguente, poco dopo le 6, Frank era lì per aiutarlo a tirar dentro le bottiglie del latte e accettò di buon grado quando Morris, che sapeva riconoscere un povero quando lo vedeva, lo invitò a bere un caffè. «Come va ora col lavoro?» chiese Morris mentre mangiavano. «Così così», disse Frank con lo sguardo incerto. Pareva preoccupato, nervoso. Di tanto in tanto posava la tazza e si guardava attorno con disagio. Schiudeva le labbra come se volesse dir qualcosa. I suoi occhi prendevano un'espressione tormentata, ma poi chiudeva la bocca come se avesse deciso che era meglio non dire mai quello che aveva in mente. Sembrava aver bisogno di parlare. Si imperlava di sudore, la sua fronte ne riluceva, le pupille gli si dilatavano in questa lotta interiore. A Morris parve uno che avesse bisogno di vomitare, in un posto qualsiasi. Ma dopo una pausa penosa, gli occhi gli si spensero, emise un profondo sospiro e inghiottì il resto del caffè. Dopo ruttò, e questo lì per lì lo soddisfò. «Qualunque cosa abbia da dire», pensò Morris, «che lo dica qualcun altro. Io sono solo un bottegaio». Si dimenò sulla sedia temendo di prendersi qualche malanno. Di nuovo l'uomo alto si protese in avanti, trasse un respiro e parve ancora in procinto di dir qualcosa, ma stavolta un brivido lo percorse, cui fece seguito un accenno di tremito. Il droghiere si affrettò al fornello e versò una tazza di caffè fumante. Frank lo mandò giù in due enormi sorsate. Di lì a poco smise di tremare, ma parve sconfitto, umiliato, come uno che avesse perso qualcosa che gli era stata molto a cuore. Questa almeno fu l'impressione di Morris. «Ha preso un raffreddore?» gli chiese con simpatia. Il forestiero annuì, strofinò un fiammifero sulla suola delle scarpe logore, accese una sigaretta e rimase seduto, con aria indifferente. «Ho avuto una vita dura», borbottò, e ricadde nel silenzio. Nessuno dei due parlò. Poi il negoziante, per fargli cambiare umore, gli chiese con noncuranza: «In che parte del quartiere abita sua sorella? Forse la conosco». Frank rispose con voce incolore: «Non mi ricordo l'indirizzo esatto, nella zona del parco. Come si chiama?» «Garibaldi». «Che razza di nome è? Come sarebbe a dire?» Frank lo guardò perplesso. «Voglio dire, di che paese?» «Italiano. Io sono di origine italiana. Mi chiamo Frank Alpine, alpino in italiano». L'odore della sigaretta di Frank Alpine indusse Morris ad accendere il suo mozzicone. Pensava di poter controllare la tosse, ma non gli riuscì. Tossì fino a temere che la testa gli scoppiasse. Frank osservava incuriosito. Di sopra Ida batté sul pavimento e il negoziante spense vergognoso la sigaretta, buttandolo nella pattumiera. «Non le va che fumi», spiegò tra un colpo di tosse all'altro. «I miei polmoni non sono molto sani». «A chi è che non va?» «A mia moglie. È una specie di catarro. Mia madre l'ha avuto per tutta la vita e ha campato fino a 84 anni. Ma mi hanno fatto una lastra ai polmoni l'anno scorso e hanno trovato due noduli cicatrizzati. Mia moglie si è presa paura». Frank spense lentamente la sigaretta. «Quel che prima avevo cominciato a dire della mia vita», disse gravemente, «è che ho avuto una strana vita. Ma strana non è la parola giusta. Voglio dire che ne ho passate tante. Sono arrivato vicino a cose meravigliose, impieghi, per esempio, istruzione, donne, ma vicino è il massimo a cui arrivo». Teneva le mani strette tra le ginocchia. «Non mi chieda perché, ma prima o poi tutto quello che mi pare valga la pena d'avere mi scappa di mano in un modo o nell'altro. Lavoro come un mulo per ottenere quello che desidero e proprio quando sembra che stia per averlo faccio qualche mossa stupida e quello che mi pare ormai di stringere in pugno mi schizza via sotto gli occhi». «Non butti via l'opportunità di studiare se ce l'ha», lo ammonì Morris. «È la cosa migliore per un giovane. A quest'ora potrei essere laureato, ma quando venne il momento di andare all'università persi l'occasione perché saltò fuori qualcos'altro. Io passo da una cosa sbagliata a un'altra e finisco sempre in trappola. Voglio la luna e così non riesco ad avere altro che una forma di formaggio». «È ancora giovane, 25», disse amaramente. «Sembra più vecchio. Mi sento vecchio. Maledettamente vecchio». Morris scosse il capo. «Qualche volta penso che la vita di un uomo continui sempre come cominciata», riprese Frank. «Una settimana dopo la mia nascita, mia madre era morta e sepolta. Non ho mai visto la sua faccia, neanche in fotografia. Quando avevo 5 anni, un giorno mio padre lasciò la stanza ammobiliata dove abitavamo per andare a prendere un pacchetto di sigarette. Se ne andò e fu l'ultima volta che lo vidi. Lo trovarono a distanza di anni, ma era già morto. Fui allevato in un orfanotrofio e a 8 anni mi affidarono a una famiglia, gente rozza. Scappai una decina di volte, anche dalla famiglia cui mi affidarono in seguito. Penso spesso alla mia vita. Mi dico, dopo tutto questo, che cosa t'aspetti che succeda? Naturalmente, di tanto in tanto, capisce, mi arrivano delle cose buone, ma poche e a troppa distanza l'una dall'altra. E di solito, alla fine, mi ritrovo come ho cominciato, con nulla». Il negoziante era commosso. «Povero ragazzo. Ho cercato spesso di far andare le cose diversamente, ma non so come fare, anche quando credo di saperlo. Ce l'ho in mente quello che devo fare, ma me ne ricordo troppo poco». Si interruppe, si schiarì la voce e riprese: «Sembra una stupidaggine, ma non è così semplice. Quello che voglio dire è che nel momento in cui ne avrei più bisogno, qualcosa mi viene a mancare, dentro di me o per causa mia. Faccio sempre questo sogno. Sento un gran bisogno di dir qualcosa a qualcuno al telefono, tanto che ne provo sofferenza. Ma quando sono nella cabina, invece del telefono, trovo un grappolo di banane appeso a un gancio. Fissò il negoziante, poi il pavimento. Tutta la vita ho desiderato di fare qualcosa di buono, qualcosa che si capisse che c'era voluto un certo impegno, e invece non faccio nulla. Sono troppo irrequieto. 6 mesi in un posto sono già troppi per me. E poi mi butto su tutte le cose con troppa fretta, con troppa impazienza. Quello che voglio dire è che non faccio quel che dovrei. Il risultato è che quando vado in un posto non ho nulla. E quando vado via sono ancora a mani vuote. Mi capisce? Sì, disse Morris. Frank tacque. Dopo un po' disse: non mi capisco. In realtà non so che cosa le sto dicendo e perché lo dico. Si riposi, disse Morris. Che razza di vita è mai questa per un uomo della mia età? Aspettava che il negoziante gli rispondesse, che gli dicesse come doveva vivere, ma Morris stava pensando: io ho 60 anni e lui parla come me. Prenda dell'altro caffè, disse. No, grazie. Frank accese un'altra sigaretta e la fumò fino in fondo. Pareva insieme sollevato e non sollevato, come se avesse concluso e non concluso qualcosa. Che cosa? Si chiedeva il negoziante. Il suo viso era disteso, quasi assonnato, ma faceva scrocchiare le nocche delle mani, sospirando in silenzio. Perché non va a casa? Pensò il negoziante. Ho da lavorare io. Vado. Frank si alzò, ma non si mosse. Cosa si è fatto alla testa? Chiese di nuovo. Morris si toccò la fasciatura. 2 venerdì fa mi hanno rapinato. Vuol dire che l'hanno picchiata? Il negoziante annuì. Bastardi del genere dovrebbero crepare, proclamò Frank con veemenza. Morris lo guardò fisso. Frank si spazzolò la manica. Voi siete ebrei, vero? Sì, disse Morris senza levargli gli occhi di dosso. Gli ebrei mi sono sempre piaciuti. Teneva gli occhi abbassati. Morris taceva. Avrà dei figli, immagino, fece Frank. Io? Scusi la curiosità. Una ragazza, Morris sospirò. Avevo anche uno splendido ragazzo, ma mi è morto di un male alle orecchie che c'era in giro in quell'epoca. È terribile. Frank si soffiò il naso. Una persona come si deve, pensò Morris con gli occhi umidi. La ragazza è quella che la settimana scorsa è stata qui al banco un paio di sere? Sì, rispose il negoziante un po' a disagio. Beh, grazie per il caffè. Lasci che le faccio un panino. Forse le verrà fame più tardi. No, grazie. L'ebreo insistette, ma Frank pensava di aver ottenuto da lui quel che voleva per il momento. Rimasto solo, Morris cominciò a pensare con preoccupazione alla sua salute. A volte aveva dei capogiri e sovente gli doleva la testa. Assassini, pensò. Davanti allo specchio incrinato e appannato dell'acquaio, si tolse la fasciatura. Avrebbe voluto farne a meno, ma la cicatrice era ancora troppo brutta. Non piacevole a vedersi per i clienti, sicché si rifasciò la testa di nuovo con una benda pulita. Nel far ciò, ripensava con amarezza a quella sera, rammentandosi dell'acquirente che non era venuto né allora né dopo e che non sarebbe venuto mai. Da che si era ripreso, Morris non aveva più parlato con Carp. Più tardi, sollevando gli occhi dal giornale, Morris si accorse con sorpresa che qualcuno stava lavandogli la vetrina con una lunga spazzola. Si precipitò fuori urlando per scacciare l'intruso. C'erano infatti in giro delle facce toste che ti lavavano la vetrina senza chiederti il permesso. Poi stendevano la mano per farsi pagare, ma uscito dal negozio vide che chi lavava la vetrina era Frank Alpine. Solo per ringraziarla e dimostrarle la mia gratitudine, Frank spiegò che si era fatto imprestare il secchio da Saint Pearl e la spazzola e la spugna per asciugare dal macellaio lì all'angolo. Ida entrò nel negozio dalla porta interna e, vedendo che stavano lavando la vetrina, corse fuori. «Ma sei diventato ricco tutto ad un tratto?» chiese Morris col viso infiammato. «Lo fa per farmi un favore», rispose il negoziante. «Sicuro», disse Frank, premendo la spugna sul vetro. «Vieni dentro, che fa freddo». Nel negozio Ida chiese: «Chi è questo Goy?» «Un povero ragazzo, un italiano che cerca lavoro. Mi dà una mano al mattino con le cassette del latte. Se tu lo vendessi nelle scatole di cartone, come ti ho detto mille volte, non avresti bisogno di aiuto. Le scatole di cartone perdono. A me piacciono le bottiglie». «È come parlare al vento», disse Ida. Frank entrò soffiandosi sulle mani arrossate dall'acqua. «Che ve ne pare ora, gente?» Ida disse sottovoce: «Adesso paga per questo favore». «Splendido», disse Morris a Frank. Andò alla cassa e fece scattare il «nessuna vendita». «No, grazie», disse Frank alzando la mano. «Va in conto di servizi giaresi». Ida arrossì. «Un'altra tazza di caffè?» chiese Morris. «Grazie, non ora. Lasci che le faccia un panino. Ho appena mangiato». Uscì, buttò l'acqua sporca nello scolo, restituì secchio e spazzola, poi tornò nel negozio. Girò dietro il banco ed entrò nel retrobottega, bussando prima allo stipite della porta. «Le va la vetrina pulita?» chiese a Ida. «Il pulito è pulito. Era fredda. Non voglio essere invadente, ma suo marito è stato gentile con me. Così ho pensato che forse potevo chiedere un altro piccolo favore. Sto cercando lavoro e vorrei provare gli alimentari, solo per vedere com'è. Potrebbe piacermi. Chissà. È che ho dimenticato alcune cose, come si fa a tagliare, pesare e roba del genere. Così mi sono chiesto se a voi dispiacerebbe che lavorassi qui per 2 o 3 settimane senza paga, solo per imparare il mestiere di nuovo. Non vi costerò un centesimo. So che sono un forestiero, ma sono onesto. Chiunque mi tenga d'occhio se ne accorge in 4 e 4/8. È una proposta onesta, no?» Ida disse: «Questa non è una scuola, caro signore». «Cosa ne dice il padrone?» Frank chiese a Morris. «Perché uno è forestiero non significa che non è onesto», rispose il negoziante. «Questo non mi interessa. Mi interessa invece che qui può imparare una cosa sola», e, premendosi la mano sul petto, «a farsi venire il mal di cuore. Non ha niente da perdere con la mia proposta. Le pare, signora?» disse Frank. «Vedo che lui non si sente ancora in forze, e se gli dessi una mano per 1 settimana o 2, gioverebbe alla sua salute, no?» Ida non rispose, ma Morris rispose seccamente: «No, è un negozio piccolo e povero. 3 persone sarebbero troppe». Frank staccò un grembiule da un gancio dietro la porta e, senza dar loro il tempo di dire una parola, si tolse il cappello e si infilò la tracolla legandosi le stringhe alla vita. «Come sto?» Ida si fece rossa. Morris gli disse di toglierselo e di riappenderlo al gancio. «Nessun risentimento, spero», disse Frank uscendo.